without a problem. I see a country always starved. I hear the music of a heartbeat. I walk and the people turn and laugh. Avevo preparato una scaletta per parlare, o meglio, stiamo a esagerare, una sorta di scaletta per parlare di ciò che avrei voluto dire in questa puntata. Ora la tengo d'occhio sotto la mia mano che la copre totalmente e diciamo che non me ne frega di seguirla. Oggi sono andato a fare un giro in bicicletta. Voi direte che c'entra, naturalmente non c'entra niente come molti dei miei pensieri con quello che in realtà voglio dire. Era una bella giornata, era una giornata sul finire di primavera che ormai sta per gettarsi in estate. È stata una giornata di sole, una giornata di profumi, una giornata di odori, una giornata di colori, una giornata di prati verdi macchiati del giallo intenso del tarassaco. È uno spettacolo incredibile, o almeno per me è così, vedere certe cose in natura. Ho faticato, mi sono divertito e ho trovato che in realtà sentirsi stanchi fisicamente, sentirsi

Sinceramente io credo che la fragilità esista in tutte le persone. C'è solo un modo diverso per affrontarla e per mostrarla. Credo che ci siano persone che vadano avanti contro tutto e contro tutti. Persone che si trasformano in una sorta di carro armato, affrontano salite, discese, muri, barricate, passano soprattutto e anche soprattutto. Persone che si sentono forti, e forti lo sono davvero. Poi c'è l'approccio che si potrebbe dire: aspetta un attimo, questo potrebbe essere un nome. E c'è l'approccio che dice: non posso pensare di essere solo al mondo. Questo approccio implica il sentirsi deboli, ma in realtà si è parimente forti. Io sono ricaduto tra i primi. Sono stato un discreto carro armato, me ne sono fregato altamente. Delle mie emozioni, dei miei sentimenti e, mi si scusi il termine, ho mandato in vacca me stesso e altri. Ora sono più verso un aspetta un attimo, perché ho capito che comunque alla fine quello che si acquista è forza. Attraverso la debolezza, vabbè, ma che cambia? Però non passo sopra nessuno. Quello che però si arriva alla fine, quando la vita ti mette davanti la sua nuda verità, fatta di crudeltà, perché questo è, non è, è bella, è meravigliosa, è stupenda, è tutto, è l'unica e sola cosa per la quale, appunto, vale la pena vivere. Però torno a dire che quando ci mette davanti quello che è la sua durezza, ci si trova fragili, ci si sente incrinati dentro, ci si vede senza splendore e ci si domanda perché, perché di tanto correre come su una scala chiocciola verso l'alto si crede di andare, e avanti, girando attorno a un asse, salendo, e poi tutto ad un tratto gli scalini, scusate, i gradini, e diventano uno scivolo e giù. E si pensa, oddio, quando è che finirà tutto? In realtà tutto finisce perché ci si riesce a fermare e si riparte di nuovo dal basso, cercando di raggiungere un nuovo alto, magari non fatto di scalini, magari ci si ferma come su un balcone lateralmente alla scheda a chiocciole e si aspetta fino a che ci si sente fremere dentro e di nuovo si prende la via della scala per salire e per poi cadere ancora. Thank you. that glitters the snow. And she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. When I look to the west, and my spirit is crying for leaving. My thoughts I have seen, rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Your stairway lies on the whispering wind. the show. Good night, Robert. Quello che abbiamo appena sentito era Frank Zappa con una versione di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Io devo dire che a me piace molto di più questa. Dopo, qualcuno di voi potrà dirmi che ho detto un'eresia, ma nel suo modo di dirigerla è veramente eccezionale. Naturalmente adesso sto appunto guardando i miei appunti, scusate il gioco di parole, vedo che la scaletta è andata e sinceramente non me ne frega niente, nel senso ero prima disteso sul letto e ho detto devo registrare, perché sembrerebbe che questa radioterapia crei dipendenza, come ha detto qualcuno. E vabbè, mai dipendenza può essere più bella, quindi non ho di questi problemi o di queste barriere. Dicevo che tutto era nato su un mio posto, forse non l'ho neppure detto, che ho scritto nel mio blog, nel quale mi sono trovato un commento di Bach che mi invitava ad entrare nella famiglia, si dice così, di Radio Pazza, almeno Museum la chiama in questo modo. E quello che andrete ora a sentire è appunto questo post. Ora non l'ho voluto rifare perché non sarei in grado di rileggerlo nella maniera corretta. La versione che sentite forse è un po' più aderente a quel momento, ma sicuramente non lo è al momento in cui lo scrissi. Certe volte credo che scrivere sia davvero un modo per liberarsi da pesantezze che lacerano dentro, e quindi tutto esce come una sorta di, scusate, di vomito di parole che deve essere gettato su una carta o su un video, quasi con violenza, con foga. Scrissi in un momento un po' giù. Come avrete notato, umoralmente sono una sorta di montagna russa. Vabbè, e scrissi che mi trovavo a violentare questa carta con pensieri e parole che mi pesavano dentro. E forse ancestralmente questo è quello che si fa quando si scrive in certe occasioni. Mettere quel furore che si ha dentro, allineato con parole su fogli sparsi piuttosto che agendine o la prima cosa che capita. Questo era stato scritto sull'onda di una musica che ogni volta che ascolto mi coglie l'animo e mi porta verso quel blu. È stato un piacere, signori e signore, naturalmente. A presto. DJ Mio vi saluta. Ciao.

mezzo ai vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci. E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco. Nessuno direbbe essere così fragile, un corpo che racchiude cristalli sconquassati dai tremori di sogni che battono in ritirata alla velocità doppia rispetto a quelle volontà che, incapaci, tentano di raggiungerli. Ladri lesti di emozioni andati e fuggiti dalla sua presa. Anche questa volta ci siete riusciti. Un corpo robusto e allenato che sembrerebbe sopportare chili e chili di carico, chilometri e chilometri di fatica, che poi cede implodendo in se stesso alle torture che si autoinfligge, come chi vuole incidere sulla carne viva segni indelebili del suo malessere. Un corpo ancora troppo giovane per sembrare in lenta decomposizione, possiede tutto ciò che occorre per farlo muovere lesto e farlo sembrare desto, ma è mancante in tutto il resto. Questo si sembra quando si impatta sulla superficie della gente, delle persone, quando ci si ferma, fuori. questo non è necessariamente quello che si ha dentro, sotto quel falso strato che mostra ora giovinezza e fisicità, ma che in realtà racchiude ciò che è andato perso, svanito, tanto tempo fa, forse per sempre, su una via che ritorno più non ha. Ci sono sere troppo vicine, che si incontrano come riunioni segrete di streghe, organizzano tragedie sempre uguali e ripetute, tragedie di tentata autodistruzione, per chi ora ha volontà debole, tragedie di sentimenti contrastanti per l'amore che non prova più per nessuno, forse neppure per se stesso. Ci sono sere in cui ti auguri che il sonno ti colga come una mano violenta che strappa, ingrata un fiore da un prato, lasciando uno stelo dunque sfibrato. Ci sono sere che conti i secondi perché esse possano gettarsi in notte, in incubo o in sogno, non importa. Quello che conta è un ragionevole momento di incoscienza. Ci sono sere che ti auguri non saranno mattine, che poi ti accorgi che fuori c'è già il sole, e non importa se poi ci sarà il cielo plumbeo, e non ti importa di andare verso un peggio che non credevi ancora possibile, perché, forse, fa lo stesso. E c'è questa musica, che scrive parole per te. C'è lo stesso colore dentro, c'è lo stesso colore nell'aria, il colore delle mie sere, dei miei giorni, di me che sono io e che vorrei essere solo Roberto. Count your fingers. What else? What else can you do? Just how you